abbiamo già finito, ma così. Ma come? Dai, aggiungi del tuo. Scherzavo, benissimo così. No, È va benissimo, ci bellissimo. vediamo il 26 aprile, grazie. A presto, Cristiana, un abbraccio. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao.